Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Dunque lo sapeva, disse K. Ma allora il mio atteggiamento le dovette sembrare superbo. Non se ne parlò tra di voi? No, disse il commerciante. Al contrario, ma queste sono sciocchezze. Che sciocchezze? Chiese K. Perché lo chiede? Disse il commerciante irritato. Sembra quasi che lei non conosca ancora quella gente e forse non lo capirà bene. Deve pensare che in questo procedimento si viene sempre a parlare di molte cose che oltrepassano l'intelligenza. Siamo troppo stanchi o distratti e per rimediare si ricorre alle superstizioni. Parlo degli altri, ma io non sono meglio. Una superstizione, per esempio, è quella di chi pretende riconoscere dal viso dell'imputato, specie dal disegno delle labbra, l'esito del processo. Quella gente sostenne che, a giudicare dalle sue labbra, lei sarebbe stato condannato di certo, e presto! È una superstizione ridicola, ripeto, e nella maggior parte dei casi anche del tutto smentita dai fatti. Ma quando si vive in quell'ambiente è difficile sottrarsi a tali opinioni. Pensi solo all'influsso che può esercitare questa superstizione. Lei rivolse la parola a qualcuno là dentro, no? La persona però non riuscì quasi a risponderle. Certo, là ci sono molte ragioni per rimanere confusi, ma una era anche l'aspetto delle sue labbra. Quello dopo raccontò di aver creduto di vedere sulle sue labbra anche il segno della sua propria condanna. Le mie labbra? Chiese K. Cavò dalla tasca uno specchietto e si guardò. Sulle mie labbra non riesco a vedere nulla di particolare. E lei? Neppure io, disse il commerciante. Proprio nulla. Com'è superstiziosa quella gente, esclamò K. Non gliel'ho detto? Chiese il commerciante. Si frequentano dunque tanto e si scambiano le loro opinioni? Disse K. Io finora mi sono tenuto in disparte. Di solito non si frequentano, disse il commerciante. Sarebbe impossibile, sono tanti. Ci sono anche pochi interessi in comune. Se a volte in un gruppo comincia ad affiorare un interesse comune, presto ci si accorge che è un errore. Contro il tribunale non si ottiene nulla in comune. Ogni caso viene esaminato a sé. È certo il tribunale più scrupoloso. In comune non si può dunque ottenere nulla. Solo il singolo arriva talora a qualcosa in segreto. Solo dopo che ci è arrivato gli altri lo vengono a sapere. Nessuno sa com'è successo. Non esiste dunque nessuna comunanza. Ci si riunisce, sì, qua e là nelle sale d'aspetto, ma lì si discute poco. Le superstizioni esistono già da un pezzo e si moltiplicano, per così dire, da sole. Li vidi quei signori in sala d'aspetto, disse K. Mi parve così inutile che aspettassero. Aspettare non è inutile, disse il commerciante. Inutile è soltanto intervenire di persona. Ho già detto che adesso ho 5 avvocati oltre a questo. Si potrebbe pensare, io stesso prima lo pensavo, che adesso potrei affidare completamente la causa a loro. Ma sarebbe un grave errore. A loro la posso affidare meno che se ne avessi uno solo. Lei non capisce, vero? No, disse K. E per impedire che il commerciante continuasse a parlare troppo in fretta, posò per calmarlo la mano sulla sua mano. Vorrei solo pregarla di parlare un po' più adagio. Per me si tratta di cose tutte molto importanti e non riesco a seguirla bene. Giusto che me lo ricordi, disse il commerciante. Lei è uno nuovo, un giovane. Il suo processo ha 6 mesi, no? Sì, ne ho sentito parlare. Che processo giovane! Ma io ho ripensato 1000 volte a queste cose. Per me sono quanto c'è di più ovvio a questo mondo. Sarà contento che il suo processo sia già tanto avanti, no? Chiese K. Non voleva chiedere senz'altro come andassero le cose del commerciante. Ma non ebbe neppure una risposta chiara. Sì, ho spinto avanti il mio processo per 5 anni, disse il commerciante chinando il capo. Non è impresa da poco. Poi rimase un po' in silenzio. K tese l'orecchio per sentire se Lenin non stava arrivando. Da una parte non voleva che venisse, perché aveva ancora molto da chiedere e neppure voleva che Lenin lo cogliesse in quella conversazione confidenziale con il commerciante. Ma dall'altra era indispettito che rimanesse tanto dall'avvocato, sebbene lui fosse lì, molto più a lungo di quanto occorresse per dargli la minestra. Ricordo ancora bene il tempo in cui il mio processo aveva all'incirca l'età del suo oggi, riprese il commerciante, e K fu subito pieno di attenzione. Allora avevo solo quest'avvocato, ma non ero molto contento di lui. Qui vengo a sapere tutto, pensò K annuendo con vivacità, come se con questo potesse incoraggiare il commerciante a dire tutto quanto valeva la pena di sapere. Il mio processo non andava avanti, continuò il commerciante. Si facevano, sì, indagini, e io prendevo parte a tutte, raccoglievo materiale, mettevo a disposizione del tribunale tutti i miei libri contabili, cosa, come seppi in seguito, neppure necessaria. Correvo sempre dall'avvocato, questi presentò anche varie memorie. Varie memorie? Chiese K. Sì, sì, certo, disse il commerciante. Questo è molto importante per me, disse K. Nel caso mio sto ancora lavorando alla prima memoria, non ha ancora fatto niente. Adesso capisco, mi trascura in modo vergognoso. Possono esserci vari giustificati motivi perché la memoria non sia ancora pronta, disse il commerciante. D'altra parte, con il tempo, le mie memorie dimostrarono di non avere nessun valore. Grazie alla compiacenza di un funzionario, potei persino leggerne una. Era sì piena di dottrina, ma in fondo priva di sostanza. Soprattutto moltissimo latino, che non capisco. Poi pagine e pagine di appelli generici al tribunale, poi adulazioni per singoli funzionari che non erano nominati, ma che un iniziato doveva indovinare in ogni caso, poi elogi dell'avvocato a se stesso, che si umiliava davanti al tribunale proprio come un cane, e infine analisi di cause d'altri tempi che dovevano somigliare alla mia. Queste analisi, per quello che potevo capirne, erano fatte però con grande cura. Con ciò non voglio neppure pronunciare un giudizio sul lavoro dell'avvocato. La memoria che lessi era, del resto, solo una fra tante. Ma in ogni modo, e questo è quello che intendo dire, nel mio processo non potei vedere nessun progresso. E che progresso voleva vedere? Chiese K. La sua domanda è più che ragionevole, disse il commerciante sorridendo. In questo procedimento raramente si vedono progressi. Ma allora non lo sapevo. Sono un commerciante e allora lo ero molto più di oggi. Volevo avere progressi tangibili. La faccenda doveva inclinare verso la fine o almeno ascendere in modo regolare. Invece c'erano solo interrogatori, quasi tutti sullo stesso argomento. Avevo le risposte già pronte come una litania. Più volte la settimana mi arrivavano in ditta, in casa, ovunque potessero incontrarmi, messi del tribunale. Questo naturalmente mi disturbava. Oggi, almeno da questo punto di vista, le cose vanno molto meglio, la chiamata telefonica disturba molto meno. Inoltre, tra i miei corrispondenti, ma in specie tra i miei familiari, cominciarono a diffondersi voci sul mio processo. Ne risentivo danni da tutte le parti, ma non c'era neppure il minimo indizio che di lì a poco cominciasse almeno il primo dibattimento. Andavo dall'avvocato e mi lagnavo. Lui mi dava lunghe spiegazioni, ma si rifiutava con energia di fare qualche cosa nel senso da me desiderato. Nessuno poteva influire sulla data del dibattimento. Insistervi con una memoria, come io pretendevo, era inaudito. Avrebbe rovinato me e lui. Pensai, ci sarà un altro avvocato a volere e a potere quello che questo non vuole o non può. Mi volsi dunque in cerca di altri avvocati. Thank you. Le dirò subito, continuò il commerciante. Nessuno di loro ha mai richiesto e ottenuto di far fissare il dibattimento principale. La cosa, sia pure con una riserva di cui le dirò, è impossibile. Su questo punto il nostro avvocato non mi ha ingannato. Ma per il resto non ebbi a rammaricarmi di essermi rivolto anche ad altri avvocati. Lei dovrebbe avere già sentito anche dal dottor Hould qualche cosa sul conto degli avvocatuccoli. Probabilmente glieli ha presentati come molto spregevoli, e in realtà lo sono. Quando parla di loro, però, confrontandoli con se stesso e con i suoi colleghi, commette sempre un piccolo errore sul quale desidero attirare, così di sfuggita, la sua attenzione. Lui chiama sempre gli avvocati della sua cerchia, per distinguerli, i grandi avvocati. Ciò è inesatto. Naturalmente ognuno può chiamarsi grande se gli fa piacere, ma in questo caso a decidere è solo la pratica del tribunale. Oltre agli avvocatucoli, stando ad essa, ci sono infatti anche piccoli e grandi avvocati. Questo avvocato e i suoi colleghi sono tuttavia soltanto i piccoli avvocati, ma i grandi avvocati, di cui ho sentito solo parlare e che non ho mai visto, rispetto ai piccoli avvocati, hanno una posizione incomparabilmente più alta di quanto questi l'abbiano sopra i disprezzati avvocatucoli. «I grandi avvocati?» chiese K. «E chi sono? Come ci si arriva?» «Dunque non ne ha ancora mai sentito parlare», disse il commerciante. «Non esiste imputato che, venuto a sapere di loro, non ne abbia sognato per un pezzo. Ma lei non cede a questa tentazione. Io non so chi siano i grandi avvocati, e fino a loro non si potrà arrivare mai. Non conosco un solo caso di cui si possa dire con certezza che siano intervenuti. Qualcuno lo difendono, ma questo non si ottiene con la propria volontà. Loro difendono soltanto colui che vogliono difendere. Ma la causa di cui si occupano deve avere naturalmente superato il livello del tribunale di prima istanza. Tutto sommato, meglio è non pensare a loro, perché altrimenti le discussioni con gli altri avvocati, i loro consigli e la loro assistenza finiscono col sembrare così inutili e odiosi, secondo l'esperienza che io stesso ne ho fatto, che uno vorrebbe lasciare andare tutto, sdraiarsi sul proprio letto e non sentire più niente. Ma questa sarebbe poi, naturalmente, la cosa più sciocca. Neppure sul letto si starebbe in pace per molto. Lei dunque allora non pensava ai grandi avvocati? Chiese K. Non tanto, disse il commerciante sorridendo di nuovo. Purtroppo non si riesce a dimenticarli del tutto. La notte in particolare è favorevole a questi pensieri. Ma allora io volevo successi immediati, per questo andai dagli avvocatucoli. Come ve ne state seduti uno vicino all'altro? Esclamò Leni, che era ritornata e stava ferma sulla porta con la sua tazza. I due sedevano in realtà molto vicini. Al minimo movimento le loro teste si sarebbero urtate. Il commerciante, che a prescindere dalla sua piccolezza teneva per giunta la schiena piegata, aveva costretto K a chinarsi a sua volta profondamente se voleva sentire tutto. «Ancora un momento!» gridò K respingendo Leni e agitando impaziente la mano che aveva continuato a tenere sopra la mano del commerciante. «Voleva che gli raccontassi del mio processo», disse il commerciante a Leni. «Racconta, allora, racconta», disse quella. Il tono con cui parlava al commerciante era gentile, ma anche condiscendente. Questo non piacque a K. Adesso si era accorto che il commerciante valeva pure qualche cosa. Aveva fatto perlomeno esperienze che sapeva riferire bene. Leni probabilmente sbagliava nel giudicarlo. Guardò con disappunto Leni togliere di mano al commerciante la candela che quello aveva tenuto tutto il tempo, pulirgli la mano con il grembiule e inginocchiarglisi vicino per grattare via un po' di cera sgocciolata dalla candela sui calzoni. «Lei voleva raccontarmi degli avvocatucoli?» disse K, scostando senza aggiungere altro la mano di Leni. «Ma cosa vuoi?» chiese Leni dando un colpetto a K e continuando il suo lavoro. «Proprio così, degli avvocatucoli», disse il commerciante e si passò la mano sulla fronte come per riflettere. K volle aiutarlo e disse: «Lei voleva avere successi immediati e per questo si rivolse agli avvocatucoli». «Proprio così», disse il commerciante, ma non continuò. «Forse non vuole parlarne davanti a Leni», pensò K. Frenò la sua impazienza di sentire subito il seguito e cessò di insistere. Mi hai annunciato? Chiese K a Leni. Naturalmente, disse quella. Ti aspetta. Ora lascia andare Block. Con Block puoi parlare anche dopo. Tanto rimane qui. K esitava ancora. Rimane qui? Chiese al commerciante. Voleva una risposta da lui. Non voleva che Leni parlasse del commerciante come di un assente. Oggi era pieno di segreta irritazione nei confronti di Leni. Ancora una volta fu Leni a rispondere. Dorme spesso qui. Dorme qui! Esclamò K. Aveva pensato che il commerciante aspettasse lì solo lui, il tempo che avrebbe rapidamente sbrigato il colloquio con l'avvocato, ma che poi sarebbero usciti insieme per parlare a fondo e con tranquillità di tutto. È così, disse Leni. Non tutti sono ammessi davanti all'avvocato all'ora che vogliono, come te, Joseph. Tu hai l'aria di non stupirti affatto che l'avvocato, nonostante la sua malattia, ti riceva ancora alle 11 di notte. Già, tu consideri più che naturale quello che i tuoi amici fanno per te. Ora, i tuoi amici, o almeno io, lo fanno volentieri. Io non voglio nessun ringraziamento. Chiedo solo che tu mi voglia bene. Volerti bene, pensò lì per lì K. Ma poi gli si affacciò l'idea. Eh sì, le voglio bene. Ciò nonostante, trascurando tutto il resto, disse: mi riceve perché sono suo cliente. Se anche per questo occorresse l'aiuto altrui, si dovrebbe mendicare e ringraziare ad ogni passo. Com'è cattivo oggi, vero? Chiese Leni al commerciante. Ora sono io l'assente, pensò K. E quasi si arrabbiò con il commerciante quando questi, accettando la scortesia di Leni, disse: l'avvocato lo riceve anche per altri motivi. Il suo caso è più interessante del mio. Ma poi il suo processo è agli inizi, dunque, con probabilità non ancora troppo imbrogliato, l'avvocato se ne occupa ancora volentieri. Più tardi le cose cambieranno. Sì, sì, disse Leni guardando il commerciante e ridendo. Quanto chiacchiera! E rivolgendosi a K. Non devi credergli una parola. È tanto caro quanto chiacchierone. Forse anche per questo l'avvocato non lo può soffrire. Sta di fatto che lo riceve soltanto quando ne ha voglia. Ho cercato in tutti i modi di cambiare la sua situazione, ma è impossibile. A volte pensa, io annuncio Block, ma lui lo riceve solo 3 giorni dopo. Ma se Block non è sul posto nel momento in cui lo convoca, tutto è perduto e deve ricominciare a farsi annunciare. Per questo ho permesso a Block di dormire qui. È successo che quello di notte abbia suonato il campanello per cercarlo. Ora Block è pronto anche di notte. D'altra parte, ora può anche succedere che l'avvocato, una volta accortosi che Block è qui, ritiri a volte l'ordine di farlo passare. K guardò con aria interrogativa il commerciante. Questi annuì, e con la stessa franchezza con cui aveva parlato prima con K, disse, forse distratto dalla vergogna: sì, in seguito si dipende molto dal proprio avvocato. Fa solo finta di lagnarsi, disse Leni. Qui dorme molto volentieri, me l'ha confessato tante volte. Si diresse verso una porticina e la spalancò. Vuoi vedere la sua camera da letto? Chiese. K si mosse e guardò dalla soglia il locale basso, privo di finestre, che un piccolo letto riempiva completamente. Su questo letto bisognava montarci dai piedi. All'altezza della testiera il muro aveva una cavità nella quale si trovavano, disposti in ordine meticoloso, una candela, un calamaio e una penna, nonché un pacco di carte, probabilmente documenti del processo. «Lei dorme nella camera della domestica?» chiese K voltandosi verso il commerciante. «Me l'ha ceduta Leni», rispose il commerciante. «È molto comoda». K lo fissò a lungo. La prima impressione avuta del commerciante era stata forse quella giusta. Aveva esperienze, perché il suo processo durava da un pezzo. Ma aveva pagato care queste esperienze. Thank you.